Sentiamo. Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farli scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma nel 2015 la categoria ulteriore oltre ai lavoratori è quella dei pensionati, che noi non abbiamo potuto coprire quest'anno, ma ancora che nel prossimo anno staranno dentro questa stessa misura, gli 80 euro in 80 giorni. È ripartito il circo delle promesse nei giorni finali della campagna elettorale, il grande circo delle promesse. Renzi che dice l'anno prossimo soldi pure per gli anziani, è solo l'inizio questo, capito? Poi Berlusconi addirittura aboliremo l'IMU. Berlusconi che dice aboliremo l'IMU, ma quando? Che non sarà mai più al governo Berlusconi, Gli ho ricordato che nel primo Consiglio dei Ministri nel 2008 abbiamo abolito l'imposta comunale sugli immobili, l'ICI, ci impegniamo quando saremo di nuovo al governo del Paese, nel primo Consiglio dei Ministri, ad abolire l'IMU. Oh, Grillo che dice alla Digos ci votano tutti, la Digos. Guardate che l'Arabia buona ci ha aggregato senza andare a picchiarci con la polizia. Qua io vi prego di lasciare una piazza pulita come abbiamo sempre fatto. Non c'è un bicchiere rotto. La Digos dicono ma siete, chi siete? Non hanno mai visto delle cose così. E ci votano tutti la Digos. Ma non ditelo! Non ditelo ancora! Bene. Con le manette strette e polsi in mezzo alla assassini lo portavano via lungo i viali di Milano. Ho visto qualcuno qui che mi ha fatto mi ha fatto il segno delle manette, quindi immagino che il tempo sia volato via. Ho finito, vi ricordo, questo è un boicottaggio tipo sinistra, non lo accetto. Rimango qui, mi faccio arrestare. Per la libertà si fa questo ed altro. Bene. Ma che puttana! Non si vergogna. Benvenuti alla Zanzara, ultimo giorno di campagna elettorale, tra qualche ora è finita. 800 24 00 24, Davide Parenzo in collegamento da Roma. Buonasera, vi sveleremo nel corso della diretta chi sarà il vincitore di queste elezioni. Sì, questo intorno alle 19.30, grandi verdetti intorno alle 19.30, dobbiamo dire stasera per chi votiamo, dobbiamo dire stasera per siamo chi votiamo. Pronti, siamo pronti, intorno la faccia pulita, la schiena diritta, siamo qui a prendere applausi e sputi dagli amici grillini, siamo qui. No, veramente gli sputi li prendi tu, gli sputi li prendi tu. Mi trovo sulla circonvallazione ovest di Roma, venite cari amici, venite, sono ma se qui. Stai a casa, ma che cazzo dici, stai a casa, però, ma che dici? Depistavo un attimo, mi depistavo. Li depistavo, mandiamoli all'Euro, sono all'Euro in via Groenlandia. Di una città. Grillo, c'è un flusso di amore tra il mio popolo. C'è un flusso, è un flusso di affetto. Io mi vergognavo a parlare di affetto, di solidarietà, di comunità, anche di amore. Questa parola non l'ho mai detta neanche a mia moglie, amore, cazzo. E ve lo dico adesso qua, perché sento questo fluido che passa da me a voi. È questo che vince. È questo che vince. C'è mia moglie. Giovane amore. Oh, a proposito di amore, l'amore è anche quello tra Berlusconi e Dudu e gli animali. Ieri sera a Matrix sentite cosa ha rivelato Silvio su lui e Dudu. Dudù mi dà i bacini. Sentite, sentite. Lei Dudù dove lo fa dormire? No. No, Dudù la sua cuccetta d'oro. No. Dudù da questo punto di vista è un gentleman. Disciplinato. Viene a dare i bacini e poi si mette nell'angolo che gli è predestinato. Ah, è un cane straordinario. E finalmente quella roba lì sui piedi leccati, su Dudù che lecca i piedi, sentitelo. Ha un orologio incorporato, cioè alle 7 di mattina io mi alzo e comincio la giornata. Lui ha messo le 7 di mattina come un appuntamento mio che lui deve tutelare, quindi io che mi sveglio un po' prima sono abituato a mettere il piede sinistro fuori dalle coperte, lui arriva e comincia a darmi dei bacini sul piede. Oddio, a leccarmi il piede. Io faccio finta di non aver avvisato, allora comincia a darmi dei morsettini e io faccio finta di niente e allora mi sveglia proprio abbaiando. E quindi è veramente un cronometro, è fantastico. Vedi, e questo è il cane che Grillo voleva vivisezionare. Quale strada perduta conosce, conosce il tuo amore, oh Maria Maddalena. No, adesso non parliamo di Maria Maddalena, ma della Maria, della marijuana. Il sindaco di Roma, Marino, annuncia una svolta, poi non farà una sega in città, eh. Ve lo dico subito perché tanto non è che decide lui. La legalizzazione delle droghe leggere e i quartieri a luci rosse. Un programma meraviglioso, straordinario, stupendo, che però un sindaco non può fare. Mi dispiace, ci vogliono leggi nazionali. Non può fare niente. Non è che può fare i quartieri a luci rosse. Beh, può fare una cosa. Ma però non può fare niente. Stai zitto che non c'è tempo, dai. No, può fare una cosa. Che è molto, molto, molto più pericoloso andare ad acquistare un prodotto come la marijuana da spacciatori per la strada, soprattutto perché i criminali hanno laboratori efficientissimi che modificano geneticamente quella marijuana rendendola una droga più pericolosa. Allora forse non sarebbe meglio che ci possa essere una liberalizzazione e che tutto avvenga con controllo medico. A parte che Marino sbaglia ed è legalizzazione, non liberalizzazione. Liberalizzazione non c'entra una sega, cioè liberalizzazione è un'altra cosa. Liberalizzazione è vendita libera, cioè vendita libera, distribuzione libera. Le prostitute lo facciamo sentire dopo, eh? Anzi no, facciamo sentire adesso. Io sono favorevole alla, diciamo, uso un termine un po' brutto in italiano, alla zonizzazione, cioè all'avere delle zone in cui diciamo possa esserci la prostituzione e altre in cui possa invece essere limitata o proibita. Oh, ma abbiamo con noi, caro Parenzo, uno degli uomini più eleganti d'Italia, forse anche un uomo molto ricco, sicuramente, finanziere, ex senatore, è stato pure al governo, Mario D'Urso, buonasera. Ricco poco. Ma come ricco poco? La vedo come sempre poco. In feste di Super VIP, D'Urso. Ricco pochissimo. È elegante di più di uno dei più eleganti d'Italia, perché nel 2012 Vanity Fair ha fatto la lista come ogni anno e bontà loro, ma avevano fatto il più elegante del mondo, quindi non siamo troppo riduttivi. Il più elegante del mondo, addirittura. Certo, anche lui si lamenta che non ha soldi, è tutto finito comunque. No, ma lei non mi dica che non ha una lira. No, un euro. Spiego subito, non ho più proprietà immobiliari, non ho più niente, ho qualche cosa, soprattutto in titoli e molto in cash, perché siccome sono vecchietto devo stare attento. Ma il patrimonio? Questo è il patrimonio. Patrimonio, e come campa durante il giorno? Vabbè, avrà un conto in banca, che ne so. Certo, col conto in banca, poi ricevo un vitalizio di 1900 e tanti euro lordo dai miei 5 anni di senatore. Cioè, lei prende il vitalizio, Mario D'Urso, 1900. Ma perché no? Perché non rinuncia? Lo dà in beneficenza? Ma no. Beneficenza ne faccio tanta, guardi, perché siccome ci sono pochi affari da fare adesso, mi occupo soprattutto della beneficenza, mi occupo di Dinamo Campi. Per cui quel vitalizio le serve in realtà, quel vitalizio le serve. Come il pane, non come il pane, ma insomma... Come il pane, vabbè. Però le posso assicurare, adesso, visto che l'ha tirato fuori lei, che faccio più di beneficenza che l'ammontare del vitalizio. E allora che le serve? Stavo proprio leggendo, mi diverte, perché oggi c'è lo sciopero di tanti giornali. Sì. E stavo leggendo il Tempo, che ha due pagine. Sì. E ci sono, l'avete visto stamattina? Sì, sì, sì, certo. 28 zone di prostituzione femminile. 28. Dove, dice lei? A Roma? Sì, seconda pagina. Ma lei lo farà? Lei è a favore dei quartieri a luci rosse o no? Sì. Non lo so, sto leggendo. Ma lei così. No, ma sono a favore di dei luoghi determinati. Per esempio, io sono anni, l'altro giorno sono andato a trovare degli amici vicino a Piazza Via Bruno Buozzi, eccetera. Sì. Tutto bloccato. Lì c'è l'ambasciata di Israele. Sì. Strada bloccata. Sì. Tutto peantonato. Sì. Di fronte a casa mia, Viale Lovanio, c'è una scuola dei bambini, fino alla terza media. E allora? È pieno di mignotte? Di fronte alla scuola, no, di fronte alla scuola ci sono le camionette, perché c'è un'ambasciata, e quindi sti ragazzi escono vedendo già i blindati, dovrebbero prendere un quartiere vicino... Sì, ma lei la legalizzazione è favorevole, sì, D'Urso, la legalizzazione della prostituzione, immagino di sì. Senta, no, ma volevo dirle sta cosa delle le ambasciate dovrebbero essere tipo alloggiate tutte insieme. E vabbè, lo so, quella è una vecchia questione. È una vecchia questione. Senta, ma lei è ancora. No, una vecchia questione, nel senso che quella di spostare tutte le ambasciate in periferia, non c'è dubbio. È ottimo, sarebbe. Senta una cosa, ma lei è ancora renziano? Renziano al 100%. Ieri ero a Piazza del Popolo. Sì, addirittura è andata a Piazza del Popolo. Ecco, Piazza del Popolo per due ragioni. Uno, perché c'era Roma ieri per la giornata Kissinger, che è venuto per poche ore ed era nell'albergo vicino a Piazza del Popolo. E lei è andata a trovarlo, naturalmente. Sono andata a trovarlo. Non c'è dubbio. E sapevo che purtroppo la schedule ieri, gli impegni di Kissinger da un lato e gli impegni di Renzi, non si sono riusciti a incontrare, ma c'è un grosso interesse. Ma si dovevano incontrare? Hanno, cioè, si dovevano incontrare, ma non si è trovato un orario che andava bene a tutte e due. Cioè, gli americani, la gente che conta in America, fa il tifo per Renzi. Ma non ne parliamo, io ero a New York la settimana scorsa, anzi, scorso, ero al Council on Foreign Relations, che è un po' il tempio della politica estera, e c'era breakfast, prestissimo, purtroppo per un napoletano come me, il ministro degli esteri Mogherini, è stata bravissima, ha parlato... Ma al di là di questo, lei dice, persone anche così, della repubblicane, eccetera, eccetera, americani appoggiano Renzi, fanno il tifo per Renzi. Gli americani sono interessati, fanno il tifo, tutta la finanza fa il tifo, ho visto Blackstone, KKR, questi grossi investitori che hanno già investito parecchio, chi nel building del Corriere, chi con le banche, eccetera, chi su Versace, e c'è un grosso interesse sull'Italia, in parte dove fanno il tifo per Renzi. A Renzi. Un attimo solo che c'è il traffico, l'ex senatore politico finanziere Mario D'Urso. Assassini lo portavano via, lungo i viali di Milano, i mitra pronti di 100 agenti di polizia. Canzone straordinaria, quella di Venditti. Siamo, caro Parenzo, con Mario D'Urso, finanziere internazionale, ex un sacco di cose. A proposito di manette, caro D'Urso, a lei l'America è molto cara, ma in America uno come Berlusconi, diciamo la verità, sarebbe già in galera o no? Non lo so, dipende. Certamente l'evasione fiscale in America è considerata più grave che in Italia. Appunto. In Italia poi dal punto di vista diciamo morale, visto che metà del paese la adotta, non è considerato un fatto così criminale come in America. E dunque in America sarebbe fiscale in America è un fatto serio. E dunque in America sarebbe già in carcere Berlusconi, diciamo, un po' di carcere l'avrebbe fatta a prescindere dall'età, dai. Sì, ma si trovavano tutti, saremmo tutti in carcere in America. Perché? Tutti gli italiani. Perché dice Perché tutti un cespituccio se lo dimenticano tutti. Quando se uno va a pescare. Io per esempio stamattina mi sono accorto, facendo tutta la lista delle grandi cose, c'è un piccolo introito, una piccola rendita di un titolo che veniva da un'altra cosa, fortuna che l'ho messa dentro, ma sono sicuro che anche se veniamo a spulciare i vostri conti anche a voi, a quelli. Ma speriamo di no. Comunque Berlusconi è stato condannato per frode fiscale, non è che è una piccola sbaglio sulla dichiarazione dei redditi, è un'altra roba. Io quello mi riferivo. Sì, no, ma non c'è dubbio che sarebbe in galera. In America. In America sarebbe in galera, ma probabilmente se stava in America, come tutti gli americani, non le posso dire. Sarebbe stato gente, più ligio, dice lei. Sarebbe stato più ligio. La gente qua dice: ma perché devo pagare le tasse quando poi le strade sono rotte, quando poi lo Stato non fa niente? Quando gli e hanno ragione, rubano, e hanno ragione, e in parte hanno ragione, dice lei, o no? Ragionissimo. Cioè, è giusto secondo lei non pagare le tasse o comunque se uno tenta? No, non è giusto, bisogna tutti pagare le tasse. Però ma la gente è talmente stufa che dice che almeno sulla coscienza dice: io ne pago meno e utilizzo meno dei servizi e nel frattempo me li faccio da me i servizi, gli asili dei bambini, non so, le spese per mediche. Per cui chi evade un po', spacciato. Chi evade un speriamo po' è comprensibile. Speriamo che Renzi lo migliori, speriamo che Renzi gli diano, che il paese lo voti, che abbia una bella affermazione. E Grillo è pericoloso? Grillo è pericoloso secondo lei? Beh, certo che è pericoloso. Pericolosissimo, eh? No, pericolosissimo no, staremo a vedere domani, ma certamente pericoloso. Un disastro sarebbe, un paese guidato da Grillo. La combinazione lo vedo su Rai 24, non c'è la voce, lo vedo già pronto a Piazza a San Giovanni. Ma voglio dire, se l'Italia si affidasse a Grillo sarebbe un disastro totale, cioè sarebbe una catastrofe. E ci mancherebbe altro, certo. Però detto questo, che alcuni di quelli purtroppo che votano Grillo è difficile a smontarli. Lei dice è difficile a convincerli. Alcuni sì, è difficile perché sento una cosa, ma gli 80 euro lo secondo... sapete meglio di me che vivete più qua di me, io sto mettendo in America. A proposito di America il paese è insoddisfatto. Su questo non c'è dubbio. Sento una cosa, ma a proposito di America, ma questa storia del complotto che è evocato da Berlusconi, l'ex di Stato americano Geithner, secondo lei è vero, ci fu un complotto per far cadere Berlusconi nel novembre 2011? Assolutamente no, perché poi dipende che vuol dire il complotto, non è che cosa, cioè, a un dato momento evidentemente anche a tutti si era, cioè, l'America ci tiene molto alla stabilità europea, ci tiene molto a che l'euro sia forte e in quel momento l'Italia per l'euro era destabilizzante, ma non c'entra niente Berlusconi, se ci per cui sono tutte invenzioni. Lei però... è Parenzo o il collega? No, Cruciani quello lì. No, sono io, sono Cruciani. Parenzo, volevo salutarla intanto e chiederle persino però veramente... lei Parenzo, se fosse stato lei al posto di Berlusconi o io ci avrebbero complottato perché le cose non andavano bene. Dunque è tutta un'invenzione, è tutta nella fantasia, nella mente non di Berlusconi sta storia del complotto. No, io non lo chiamerei complotto, ma evidentemente quando gli americani vedevano come gli europei, come noi vedevamo il paese andare alla deriva, lo spread a quelle cose, non era questione di complotto. Quando c'è stata la possibilità di trovare una soluzione migliore per il paese, il presidente Napolitano l'ha trovata, ma non è un complotto. Senta, un'ultima cosa, D'Urso, poi la lascio. Gli 80 euro di Renzi, mi dica la verità, per lei 80 euro che so, niente, cioè, è una mancia elettorale sta cosa di Renzi degli 80 euro, mi dica la sua. Ma le dico la sua, certamente che per me 80 euro, beh, certo a me mi farebbero comodo, no, 80 euro al giorno li preferirei, ma evidentemente per delle persone che ricevono mensilmente meno di 2000 euro o meno di 1000, 80 euro è già il 5%, il 10%. Vabbè, ok, ho capito. Li butti via, ma... Dunque lei è d'accordo su questa roba? Non è sono un una buon mancia. Segnale, non un so, buon segnale. Non è una mancia elettorale. Va bene, senatore, grazie. No. A presto. E votate Renzi, mi raccomando. Vabbè, anche ma non si due, può fare. Ma come votiamo Renzi? Noi non voteremo Renzi. Anzi, Parenzo forse lo voterà. Io no. E chi votate? Grillo? Io forse voto Grillo, sì. Ma per il greco no. Per motivi tattici, poi lo dichiareremo. Dopo le 20 faremo questa grande dichiarazione. Non si può, ma ce ne fottiamo. Arrivederci. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, hey, hey. Sta la parte. persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei. Io darò pure messaggi sbagliati, però sentiamo la nostra amica Iva Zanicchi, la nostra amica Iva Zanicchi, che è candidata di nuovo al Parlamento Europeo, che dice: gli anziani sono tutti sdentati. Ma andando in giro, ma voi non, ma lo sapete, guardate un pochino le persone di una certa età, dai 70 in... Oh, sono tutti sdentati queste povere gente. Ma lo sapete cosa costa il dentista? Una follia. Nessuno si può permettere una dentiera. Berlusconi farà le dentiere a chi non ha soldi. Io fossi un anziano mi incazzerei pure. Cioè, non è che uno gira e pieno di settantenni sdentati. Io vedo tutta gente con i denti normali, che le dentiere magari se le ha rifatte. Che vuoi dire? Che vuoi, che stai biascicando? Che stai blaterando lì? No, ho detto che su questo stranamente è una considerazione giusta, hai ragione, è vero. Beh, quando do in culo a quelli del PDL o di Forza Italia, a te... No, cioè... a dare no, usiamo un'espressione diversa, quando dai contro, diciamo, no. Quando do contro, sì, quando do contro. A proposito di Berlinguer... Il signor Berlinguer, che è stato evocato in questi giorni, perché sappiamo che Grillo ha detto: noi siamo gli eredi di Berlinguer, eccetera, eccetera. Con quella scena patetica di farsi prendere in braccio a imitazione del grande comizio. Sì, da Di Battista, sì, da Di Battista. Sì, vabbè. Una pagliacciata, buffonata. Una pagliacciata, non c'è dubbio. Però fa parte dello show di Grillo quotidiano, non va ti... benissimo qualunque cosa. Però Berlinguer non si può toccare, per carità. Ma no, non ho senti detto cosa questo, ha detto Sallusti detto su questo. Berlinguer. Sallusti su Berlinguer. A proposito del mito, poi basta con Berlinguer, perché io, quando sento la parola Berlinguer, già mi vengono, cioè, una roba vecchia, passata. È morto nell'84 il povero Berlinguer, lasciatelo in pace, no? Secondo me Berlinguer è il primo razzista dell'Italia moderna, cioè? Perché ha diviso gli italiani in due categorie razziali, etniche, quelli di sinistra moralmente, eticamente superiori, e quelli non di sinistra moralmente, eticamente inferiori, non personalmente, ma in quanto appartenenti a una categoria politica, quindi a un'etnia. Quindi Berlinguer è il primo razzista. Berlinguer, il primo razzista d'Italia. Non ho mai sentito una stupidaggine più grande, guarda. Mai. Vabbè, aveva diviso il mondo, almeno l'Italia, in quelli puri e in quelli disonesti, no? Aveva detto che esisteva nel paese una questione morale. Si no, poi aveva anche parlato alla... della superiorità. Vabbè, lasciamo perdere. Non TG3. TG3. Comunque, per Sallusti è il primo razzista d'Italia. Poi dice che si intascava pure i soldi dell'Unione Sovietica. Dunque, questo mito di Berlinguer deve essere, secondo Sallusti, ridimensionato. TG3, dai, forza. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi fa il punto sui primi mesi di governo. Gettate le basi del cambiamento. Gli 80 euro sono solo l'inizio. Le tasse caleranno ancora. Temo disordini se vincono i 5 Stelle, dice Berlusconi, che attacca anche il Premier. La ricetta è sempre più tasse. Non arriva al 2018. Grillo chiude la campagna fra poco in piazza San Giovanni. Noi cattivissimi ma non violenti, siamo milioni e per gli altri ormai è finita. Gli ultimi appelli al voto. Il nuovo centrodestra, noi motori del cambiamento. La Lega, arriveremo quarti. Tsipras, no all'Europa del rigore. 22 anni fa la strage di Capaci, la morte di Giovanni Falcone. Palermo invasa dai ragazzi. Napolitano, forze sane e giovani contro le mafie. Domenica si vota anche in Ucraina per le presidenziali. Putin attacca ancora l'Occidente, ma assicura che Mosca rispetterà il risultato delle urne. E 27 condanne per disastro ambientale e omicidio colposo per le morti da amianto all'Ilva di Taranto. Per il tribunale colpevoli 3 generazioni di dirigenti. Questo non prevede la democrazia, c'è solo in Cina, perché sopra ci sono i maoisti. Noi siamo il piano B dell'Europa e lo devono capire. Comincia la festa, ma la festa è festa. Noi stiamo cercando di diventare un paese virtuoso aumentando il PIL, sai come c'era oggi sul giornale? Con la prostituzione e la droga. Con la prostituzione e la droga aumenteremo il PIL, perché andranno dentro i dati Istat. Ma è incredibile! E fai felice e ricco il tuo paese! Vai a puttare, Dio mio! È fantastico! Nella loro ottica morta! E noi decidiamo che gioco giochiamo, rabbia, violenza, chiamala come ti pare. Marco da Padova, buonasera. Sì, pronto, ciao, pronto. Vai, vai, dimmi. Pronto, ciao, ciao. Volevo fornire a tutti gli ascoltatori della tua trasmissione un metodo scientifico per comprovare che Parenzo a volte dice monate incredibili. Sono di Padova, sì. Il Parenzo quindi sì. Mi potrà assolutamente capire. Soprattutto mi ha dato un grande assist parlando del discorso di Berlinguer, perché la mia motivazione di questa prova scientifica, di questo metodo scientifico, è che quella un paio di settimane fa in trasmissione lui citando l'affezione per Berlinguer al PC, non so se ti ricordi. Marco, vai veloce, però vai veloce, amico mio, vai veloce perché non ce ne frega niente. Dai, questione anche di autonomia operaia. Allora, uno quando dice una cosa è veramente mona. Allora, voglio spiegare, ok, sì. Il metodo con cui ho scoperto che è veramente mona. Qual è? Usando un proverbio veneto che lui piaceva tanto, no? Che è un proverbio antichissimo della Serenissima che dice: se uno ga faccia da mona, ok, probabilmente è anche mona. Allora io sono andato a vedere su Wikipedia la faccia di Parenzo ed è certificato che è mona. Sì, ma che serviva, scusa, ma a che diavolo serviva quella roba, che l'introduzione che hai fatto? Bastava dire: sono andato su Wikipedia, ho visto la foto di Parenzo, siccome la faccia da mona è anche mona, punto. Hai fatto perché lui è bravo, intelligente, eccetera, a volte dice delle cose proprio da mona, capito? Vabbè, a volte, Giampiero da Roma, da Roma, non devi dire niente, Giampiero da Roma, non c'è niente da dire, Parenzo, scusa. Ti voglio aiutare nel ragionamento, così sì. Detto. E se mi fai dire una cosa, visto che dici che parlo sempre bene del PD, anche qualche imbecille che ogni tanto chiama mi considera lo speaker del PD, credo che Renzi oggi abbia fatto uno dei più grandi errori, una cosa molto scorretta, che è quella di aver fatto una conferenza stampa con delle slide usando una sede istituzionale che è Palazzo Chigi per fare una comunicazione che era pura campagna elettorale. Sì, perché non c'era nulla di nuovo da comunicare, diciamo la verità. Non c'era nulla di nuovo da comunicare. Due, il giro del mondo, il giro d'Italia in 80 giorni è una straordinaria trovata, come dire, di comunicazione giornalistica, ma non è che c'erano oggi dei provvedimenti del governo che lui aveva lanciato. Sì, poi uno se li può sempre inventare i provvedimenti. Tra l'altro, siccome ha usato una sede istituzionale, io avrei voluto vedere lì vicino il signor Alfano. Ora, non lo ha messo vicino perché sennò avrebbe perso voti probabilmente, no? No, perché quindi magari Alfano è impegnato a chiudere la campagna elettorale da qualche parte. No, perché la confusione era che se è una cosa del governo, quella comunicazione lì, ci doveva essere almeno il vicepresidente del Consiglio o un altro membro del governo. E invece l'ha fatta indubbiamente col doppio fine di campagna elettorale. Ecco, questo, se l'avesse fatto Berlusconi probabilmente sarebbe venuto giù il mondo. Giovanni da Verona. Tanto per dire che sono Giovanni da Verona. Giovanni, non è che ho il cervello alla mano. Ma io non l'ho mai pensato. Giovanni da Verona. Per dire, ma quegli imbecilli che chiamano ogni tanto. E vabbè, ho capito, ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Tu rispondi e via. Giovanni da Verona, dai. Pronto, buonasera a tutti. Volevo sapere se l'ordine dei giornalisti potrebbe cacciar via Telese per quell'intervista fatta a Dudu. Perché? Che è successo? Non ho capito. Che esempio di giornalismo è questo? Ma perché? Non ho capito. Uno non può fare le domande su Dudu. Non dica stupidaggini, Giovanni. Non sono stupidaggini. Sono stupidaggini colossali. L'ordine dei giornalisti non c'entra niente. Cacciare Telese è una stupidaggine colossale. Mi verrebbe da dirla come Emilio Fede, ma che figura di merda. Ma non ho capito, uno non può qual è il problema a fare domande su Dudu, Giovanni? Qual è il problema? In un momento così parliamo di Dudu. Ma ha parlato anche di altre cose e poi ha parlato anche di Dudu, è normale. Dudu è un protagonista che a lei piaccia o no, Dudu è un argomento di attualità che fa notizia. Dunque Telese fa domande sull'attualità. Perfetto. Daniele da Milano. Dudu è un protagonista, sì, perché Berlusconi ha toccato Dudu e l'ha fatto diventare un protagonista, ha trasformato la latta, in questo caso il pelo, in oro. È la realtà, così è. Poi uno può piacere o può non piacere, ma sti cazzi, non è un argomento di campagna, è un protagonista della campagna elettorale. Daniele Milano. Ciao. Vai. Senti, io parlate sempre di Renzi e Grillo. Di Renzi e Grillo, sì. Ok, ma sì. Quando è che mi fate sentire il Vendola giovane che declama le poesie dentro il panettiere? Il Vendola? Ma lei ha fumato? Che ha fatto lei, Daniele? Scusa. No, una voce bassa, un po' rilassata, un po' così. No, sì, una voce così da riposata. Sai, perché io sono un oppresso. Allora? E i Vendola e i Sipras così li ritengo paladini. Lei è un oppresso, lei si definisce un oppresso. Sì, che vuol dire un oppresso? Oppresso mi sembra... Parte di... ceti deboli. Dei ceti deboli. Che vuol dire ceti deboli? Aspetta, in Tsipras c'è molta gente del quotidiano che ti attacca, hai notato? Molta gente del? In Tsipras, candidata. Ci sono molti giornalisti. Aspetta. Pronto? Sì. E il conduttore? Sì. Ma chi deve essere? Io questo qua E il conduttore? Sì, sono io, sono il conduttore. Tu lo sai che l'ho incontrato questo personaggio, un tizio, sì, a Torino, detto, alla Fiera del Libro. Ma adesso lo richiamo. Non chiama più. Ma no, non chiama più, perché tanto comunque le performance vanno bene solo una volta. Devi richiamare solo Riccardo prima o poi. No, ma non vuole chiamare Riccardo. Stanno aumentando i fan. Perché o fan. Com'è che hai detto? Com'è che lo hai titillato l'altro giorno dicendo cosa? Che non è ispirato. Non sente, che ha bisogno di ispirazione. Certo. Ha bisogno di ispirazione per dire tutte quelle fregnacce, quelle parolacce, insultare gli anziani. Ma quando mai? Il Riccardo, l'artista dell'insulto. Certo, ha pure certo. Bisogno dell'ispirazione. Eccotela qui l'ispirazione, che te la do io. Aspetta che ti do io l'ispirazione, che per fai? Riccardo. Che fai, Riccardo? Aspetta che ti do io l'ispirazione. Che vuoi chiama, fare, Riccardo? Chiama, Riccardo, chiama. Ecco qua. Sei un coglione, guarda. Adesso si scatenerà l'esercito di Riccardo, i riccardiani. Scatenerà, ma chi è sta gente? Hai creato un mondo parallelo, ti rendi conto o no? L'esercito di Cruciani, l'esercito di Riccardo. Ma no, c'è anche l'esercito gente? Di Parenzo, eh. Ma si mette tutto un mondo parallelo che non esiste. È proprio l'esempio, ecco, è l'esempio del grillismo, questa roba qui, bravo. Mi hai dato l'occasione per dimostrare. È un mondo parallelo. Perché secondo te esiste veramente della gente? No, certo un... che esiste. Ma senti, senti Grillo, che dice anche il Papa si è iscritto al blog, senti. Noi siamo nati il 4 di ottobre del 2009, il giorno di San Francesco, siamo i primi francescani d'Europa. Papa Bergoglio è venuto dopo e so che si è iscritto al blog. So che si è iscritto al blog, dai, questa qua non può essere vero. Papa Francesco, cioè da Papa Francesco ci si può aspettare di tutto, di tutto, anche che dica voto, che faccia una dichiarazione di voto sull'Italia. Cioè, ma, diciamo la ma verità. Non può votare, è stato no, lettero. Ma dico così, lo so, però che si sia iscritto al blog di Grillo mi sembra molto strano. Tra tu... un po' ti presento un ospite, se vuoi, che ho no, qui. No, ma chi è? Tuo figlio, chi è? No, dai, no, una fai ragazza. Parlare un neonato in diretta alla Zanzara, la nuova frontiera viene rotta. Sì, aspetta, un neonato in diretta alla Zanzara. Aspetta, intanto Giampiero da Roma, dai, Giampiero. Ci prepariamo e lo facciamo, il neonato alla Zanzara. Giampiero da Roma. Eccomi, ciao sì. A tutti. Vai, vai. Aspetta, sto calando. Dai, Giampiero, su. Ecco, sto a lavorare. Ma che stai facendo? Sto al lavoro, ma che si mi rompono le palle. Cambia la bobina, mo vengo un secondo. Ma che è? La bobina di cosa, Giampiero? No, la bobina di carta che qua ha lavorato. E quello mi rompe le palle e sta magnate, deve fare, ne so. Ma... Giampiero, allora, ma innanzitutto, ma che negozio è? Che fabbrica è? No, che posto? No, fabbrica pomezze di carta. Te la passo, guarda. Chi è? Chi è? Si chiama Veve, aspetta. Ma chi è? Signor Cruciani, come procede? Ma chi è? Vittoria? No, Veronica. Veronica. Chi è Vittoria? È un'altra ragazza che ogni tanto andava da Parenzo. Quanti anni hai, Veronica? Quanti anni ho? Che gli dico, l'età ufficiale? No, ufficiale. 25? 25. 25. 34. 34? Ma chi sei? Non sei Veronica Gentili, tu? No. No, un'altra, vabbè. Ma quanti ha? 34 anni? Ben portati. Sì. Misure? Misure? Ti ripasso David, ottime. Vabbè. Comunque. Tutto ottimo? Tutto regolare? Quinta, no? Quinta? No, ma quale quinta? Mi chiede le misure. Ma che cose becche. Comunque siete veramente dei becche. Siete dei becche. Rimanete i miei cocò, quindi c'è cioè un... Come siamo? Ma sì, i difetti di uno si riverberano sull'altro. Siete orrendi, dai. Ma perché? Scusa, non ho capito. Ma ti ho chiesto una cosa. Sei venuta tu al telefono. Ti ho chiesto una cosa e ti sei tirata indietro. Vabbè, comunque... Ma no, questa è la patata bollente che tira qua il dottor Parenzo. Ecco, appunto. Giampiero da Roma. Mamma mia, che porcherie che succedono. Eccomi. Allora, dimmi, dai. No, stavo dicendo, ma quale cosa più che aspetto, diciamo, da da fan Grillo è quello del processo mediatico dei politici, dei giornalisti, o no? Cosa allora? Ne pensa? No, perché in questo momento in cui tutti non ne possiamo più, ma qual è la cosa più bella che possiamo attendere? Il processo ai politici. Ma quale processo? Non ci sarà nessun processo ai politici, però... Il processo web, come no? Vabbè, ma i processi li fanno i magistrati, dai, su! Anche se è una cosa fittizia, dico, però, anche se è una cosa fittizia, una cosa finta, ma qual è la cosa più bella, secondo lei, in questo momento di un italiano che è in difficoltà, che non ne può più di questi politici e tutto quanto? È quello di un processo mediatico. Sì, ma il web, processo via web non significa nulla e le dico io, non si farà. Cioè, che vuol dire il processo? Quali sono i capi d'accusa? Il processo li fanno i magistrati, poi uno si può divertire a mettere in mezzo nel web Berlusconi, come dice Grillo il nano, eccetera, eccetera. Uno si può divertire, però alla fine non resta nulla, perché che processo è? Beh, ma i capi d'accusa già ci sono, se vai a vedere tutti i politici. Vabbè, che dai, ci sono. Giampiero, dai, una puttanata, dai. Davide da Genova, va bene per la campagna elettorale, stupendo, è meraviglioso, un pezzo teatrale fantastico, il plastico e tutto. Davide da Genova. Sì, salve. Allora, io volevo chiederle, il voto ovviamente è libero, ognuno sceglie di votare chi vuole, però io mi meraviglio di lei, Cruciani, che sì, io concordo al 99% con quello che pensa. Come può votare uno che propone in ordine il reddito di cittadinanza, sì, no TAV contro nessuna opera, dice che il comunismo è bello ma è stato applicato male, contro la scienza, contro il progresso, è giustizialista, e questi processi in piazza, attenzione, lei ha ragione, attenzione, lei ha ragione, perché l'ultima volta che sono stati proposti, ma io ho detto forse, sono stati sottovalutati, ma ho poi detto forse. Ho capito, però già sarebbe la seconda volta. Il voto, questi personaggi qua, noi pensiamo di darlo contro, no, contro i politici, contro questa classe dirigente, ma questi personaggi qua nella storia lo hanno sempre considerato come un voto a favore delle cazzate che dicono, ed è preoccupante, e purtroppo è grave che l'unico che dica oggi che Grillo è un pericolo per la democrazia è Berlusconi. Perché dovrebbero dirlo tutti, dovrebbero tutti rendersene conto che... Cioè lei dice, no, non è la sinistra a dire queste cose, ma è Berlusconi. Berlusconi lo fa per puro motivo tattico, cioè per puro motivo tattico. Dice una verità. Voglio dire, io sono un liberale, come penso anche lei si definisca tale, e sentire certe cose mi fa veramente venire... mi preoccupo, perché non vanno sottovalutate, soprattutto in una situazione del genere in cui, nonostante tutto, Grillo continua ad aumentare i consensi, perché poi sono degli esagitati, sono dei pazzi come quelli che li sostengono, sì, e quando andranno al governo, perché io penso che se va avanti così ci andranno, faranno di tutto per mettere in pratica quello che dicono, e allora lei già sarebbe sotto processo, perché ma quale sono? Ma chi lei, se ne mi metto sotto, da lei non si vanno, ma se mi mettono sotto processo, quindi lei deve stare attento prima di votarli, perché guarda che se mi mettono sotto processo io me ne fotto totalmente, non ha capito ancora, grazie. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. Mario Borghezio, protagonista a Roma. Sentite, a un certo punto si presenta in un quartiere dicendo: siete invasi dagli immigrati. E due donne si avvicinano. Brutto razzista. Basta invasione! Roma agli italiani! Basta con l'invasione! Basta con l'invasione! Vabbè, allora andiamo a domandare se questa il signore è un quartiere invaso! Basta! No, non si permetta di toccare allora, il legato. Lei non si può permettere, lei! Questo è un quartiere invaso! La Lega dice lo libereremo! Fai vedere quanto è bella la tua terra! E Nabucco salirà. Basta, coraggio italiani! Siete circondati! La Lega! Coraggio! Razzisti! Coraggio italiani! Andate! Coraggio italiani! Italiani! Vi libereremo! Non vi conoscono! Non c'ero tu! Non vi vogliono! Andatevene a casa! Andatevene a casa! Padania bella. Borghezio in un quartiere di Roma, che quartiere era? Non mi ricordo. No, guarda, quella cosa, la storia è diversa. Quella lì è una scuola che è conosciuta a Roma da molti, perché è una scuola multietnica, sì, è stata la prima scuola multietnica di Roma. Vabbè, allora? No, è una scuola simbolo, quindi ha sbagliato posto, perché i genitori che iscrivono i loro figli là, sì, lo fanno anche per un progetto culturale e educativo. Un progetto culturale. Sì. Giacomo da Catania, senti Giacomo. No, ma aspetta, la scena più più belle, quando gli stanno portando via il megafono, e lui dice: no, per cortesia, lasciatemi il microfono, via, razzesca, e urla delle robe terribili, gli portano via il microfono, scena geniale. Sì, comunque sono fascisti queste no, qua. No, sono fascisti. No, come dico, no, sono delle donne fasciste che hanno comportamenti fascisti, perché uno può fare in mezzo alla strada quello che vuole, e queste donne, queste cretine che interrompono un comizio di borghezza in piazza, sono fasciste. Giacomo da Catania, è chiaro, no? Giacomo. Buonasera Cruciani, io sono Giacomo da Catania e fra poco faccio 70 anni. Siccome allora? ho sentito che tutti quanti hanno fatto la dentiera, ma quale? Qua siamo in mezzo a una strada. In che senso? Ma lei ce l'ha la dentiera o no? A quale dentiera? Io mi mancano quattro denti davanti e canto la canzone "Fammi crescere i denti davanti", ma non mi crescono. Che canzone canta, scusi? "Fammi crescere i denti davanti", ma ne mancano 20 e mi sembrano tanti. E perché non c'hai soldi per fare la dentiera? Eh? Bravo, perché un dente costa 1000 euro. Ma in biantologia ho avuto, diciamo, nel passato quelle lì a Ponte, mi hanno rovinato tutti gli altri denti. Perché l'età c'è. Però scusi, quindi... Giacomo, ma la, come si chiama, la mutua, la ASL, insomma lo Stato non gliela passa la dentiera? Ma no, non lo so se la passa. Ma si vada a informare, non è che rimane senza denti. Come fa a mangiare, a campare senza denti? Bene, mangio come fanno le persone anziane. Se invece noi eravamo... Come fa a baciare una persona? Come fa a baciare una donna? No, bacio una donna con bene, senza denti, non è che sono i denti che debbono baciare. Vabbè, ma scusi, ma è una porcheria, una cosa oscena, uno bacio. Ma va bene, ma dopo una certa età penso che ci diamo una calmata, no? Vabbè, il bacio, vabbè, comunque si può baciare anche senza denti, per carità. Comunque certo. Giacomo, lei ci crede a Berlusconi che le pagherà la dentiera o no? Dunque, allora, ascolti, io ho votato nella mia vita un po' tutti. Sì, ma lei ci crede a Berlusconi adesso o no? Il più pulito per me ha la rogna dei politici. Dunque non ci crede a Berlusconi? Pensano solamente ai cazzi loro. Vabbè. E adesso mandiamo lì in Europa, al Parlamento europeo, delle persone a 36.000 euro. Ma io quando li vedo 36.000 euro in 5 anni con la pensione che ho? Vabbè. Per riprendere in un mese, ma lei si rende conto di come siamo ridotti male in Italia? L'abbraccio, Giacomo. Ecco i cavalli che stanno già in movimento nella scia della macchina. L'autostart aumenta ancora di velocità. Allineamento soddisfacente. Partiti, va subito in testa Paganini, seguito da Lucky Lady o Sole Mio col numero 4. Dirittura d'arrivo. Mon Amour è lanciatissimo. Yeah, vai, Cicco! Sì. Sembra non risentire dell'andatura dei primi 1000 metri. La vittoria appare a lei sua. Cicco vuole tutta e Sole Mio sembra non farcela. Mon Amour, amore mio! Adesso Mon Amour trova addirittura la forza per allungare. Stacca o Sole Mio, ma rompe, vai, è incredibile. Mon Amour rompe e viene squalificato. Primo Sole Mio, secondo Paganini, terza Lucky Lady, quarta Sole Mio. Allora, le corse dei cavalli. Antonio Noto, buonasera. Buonasera a tutti. Sondaggista IPR Marketing. Buonasera. Allora, quali sono i cavalli in corsa? Cominciamo a dare i nomi. O Sole Mio, mi sembra, no? O Sole Mio, quale sarebbe? O Sole Mio. No, prima nella, appunto, cioè, sentivo che c'era questa parte del film in cui diceva Sole Mio, insomma. Sì, quindi... No, diciamo, facciamo una cosa su il cavallo che è in testa in questo momento, come si chiama? Ma io chiamerei Dante, va? Dante. Sì, Dante. Chiamiamolo Dante. Dai, Dante, chiamiamolo Dante. A quanto siamo? Ma diciamo che può percorrere un giro di campo tra i 30 e i 33 secondi. Quindi, tra diciamo, i 30 e i 33 secondi, Dante. Abbastanza veloce, insomma. Dante che ricorda, diciamo, Firenze, no? Diciamo, no, Dante. Che Dante, scusa, Dante. Dante, scusa. E poi subito dietro Dante? Ma subito dietro Dante potremmo dire, insomma... Cavallo de Mar, potremmo chiamarlo, no? Cavallo de Mar? De Mar, sì, vicino al mare si vive, no? Cioè, sì, Cavallo de Mar, sì. Cavallo di Mar. Genova, diciamo, sì, di Genova. Insomma, sì, guarda il mare, ponente, levante, A quanto siamo? Ma io direi segue a ruota, può girare insomma 25 secondi, 28 secondi, diciamo. Tra 25 e 28 secondi. Diciamo, cioè, per cui c'è l'ipotesi che Dante giri a 30 e Cavallo De Marra a 28, giusto? Allora, al rettilineo finale sono così. Poi bisogna capire il rettilineo finale come. Ma l'ipotesi di un sorpasso? L'ipotesi di un sorpasso, noto che sondaggista di PR Marketing, la vedi complicata o no? O possibile un sorpasso di Cavallo De Marra su Dante? La vedo complicata, ma non impossibile. Non impossibile. Non impossibile. Non impossibile. Cioè, potrebbe esserci, ciao Notto, potrebbe esserci una galoppata finale di De Mar, che potremmo anche chiamare in modo shakespeariano il folle, no? Il matto, come nella commedia. Il di cavallo matto. Sì, diciamo, è come il cavallo che sta, appunto, non lo so, ecco, a ruota dell'altro, e tutto sommato agli ultimi 50 metri può cadere di tutto. Ecco, ma chi è? Cioè, però possiamo dire che il cavallo, no, il qui cavallo sembra, matto. Qui sembra che il giro, però, scusami Parenzo, qui sembra che il giro, se uno ci mette tra 25 e 28 secondi, in realtà arriva prima, cioè, ma non è così. No. Stiamo parlando della vince chi ci mette più tempo a questo punto. Vince chi ci mette più tempo, diciamo. Vince chi... Oppure questo qua è, diciamo, il tempo degli ultimi 100 metri. Diciamo. Ma sì, comunque, Dante tra i 30 e i 33, sì. Cavallo De Marra, cavallo folle, cavallo pazzo, matto, come dice Parenzo, tra i 25 e 28. Subito dietro, chi c'è? Poi abbiamo il, diciamo, io la chiamerei il cavaliere, poi, proprio, no? Com'è? Il cavallo del cavaliere, diciamo, insomma, ecco. Il cavallo del cavaliere. Potremmo così chiamarlo anche il pony, se vuoi, il pony. Beh, no, non esageriamo. Il cavallo del cavaliere, diciamo. Com'è messo negli ultimi 100 metri il cavallo del cavaliere? Diciamo, è terzo. Sì, è terzo, sicuro, sicuro. Sicuro, è un po' azzoppato. Azzoppato, e sì, c'è uno zoccolo che non va molto, molto sì, bene. Dunque? E diciamo gira più o meno, diciamo fa il giro di campo intorno ai 18 secondi, ma fa un po' di sopraffiato, ecco, non è detto che poi riesca pure sui 18 secondi. Ma insomma, addirittura un po' potrebbe... sopraffiato, un po' ingrassato, è andato, insomma. Cioè potrebbe andare sotto i 18 secondi? Non è da escludere neanche questo, perché come dire, non sta avendo una ottima prestazione, insomma. Vabbè, ecco, sopra i 4 secondi chi c'è invece? Ma sopra i 4 secondi ci sono i cavalli nordici, sicuramente. Sì. E poi, diciamo, sui sopra i 4 secondi ci sono, insomma, cavalli, diciamo, io li chiamerei un po', come dire, come li possiamo chiamare? Che ne so. I cavalli siciliani, va? I cavalli siciliani, sicuramente sopra i 4 oppure in bilico? No, diciamo che l'ultimo giro lo fanno sopra il 4, diciamo, quindi se mantengono l'andatura costante saranno sopra il 4. Grazie Antonio Noto, grazie. Grazie. Ciao a tutti, ciao. Allora, ti comunico che un nostro amico ti vuole denunciare per violazione dei sondaggi. Ma dai, su ragazzi, questa era una gara di cavalli. Abbiamo rappresentato una gara di cavalli, punto e basta. Non lo so perché vuole denunciare te, forse vuole denunciare anche me. Abbiamo denunciato una gara. Abbiamo semplicemente fatto una fotografia di una gara di cavalli. Ma vuoi denunciare? C'era da... Oddio, ma che c'hai paura delle denunce? Dante, no, ma non c'è Cavallo De Marra. Ero all'ascolto tuo, quindi non so niente. Dante, Cavallo De Marra, Cavallo Folle. Molto vicini, eh. Poi c'era il Cavallo del Cavaliere, molto lontano, azzoppato. E poi il Cavallo Siculo e l'altro del Nord, sopra il 4, vabbè. Il primo sicuramente, il secondo sicuramente sopra il 4, l'altro potrebbe. Gennaro, Napoli. Non c'è. Paolo, Milano. Vai. Sì, niente, volevo parlare del PIL, delle nuove voci che vanno a comporlo. Diciamo che Grillo ha detto l'ennesima stupidaggine, perché secondo me diminuisce l'illegalità e aumenterà la legalità. la prostituzione nel calcolo, la droga. Ma guarda che non l'ha detto Grillo, cioè è un nuovo calcolo che si vuole fare per il PIL. Cioè... No, ma quello l'ho capito, ma Grillo ha detto che andiamo tutti a puttane. Ma Grillo è un battutista, è una battuta, è una battuta, amico mio, una battuta. No, però adesso parlando seriamente... Per me diciamo che può essere il primo passo per la legalizzazione della prostituzione e delle droghe leggere. Cioè, se noi speriamo, ma non credo, in Italia non ci si arriverà mai. Bisogna che ci sia anche là una cosa traumatica, come al solito. Però secondo me questo aumenterà la fascia di economia che potrà essere legalizzata. Va bene, grazie. Ciao. Carla Mantova, Carla. Sì. Vai. Sono Carla. Vai Carla, su, vai! Allora, prima di tutto vi dico già per chi voterò. Ci dica. Può interessare, visto che... Ma ci dica, se vuole. La libertà è solo per la libertà assoluta. Io sono una berlusconiana, voterò per Silvio. Ma no. E lo conosco. Sì. Una persona estremamente... Andiamo a riassumere. Sì. Cioè non è che ci può spiegare tutti i motivi per cui voterà Berlusconi, no? No. Sì. Allora? La prima cosa è che comunque, certamente io sono provenendo da una formazione socialista craxiana, sì. Sono confluita dopo il disastro che ha combinato quell'imbecille di Pietro, sì. E dico anche il motivo, perché lo conosco bene, io conosco Bettino. Sì, Carla, è roba vecchia, è finita. No, è finita, è roba vecchia. Non Berlusconi, è roba vecchia, grazie. Sì, però basta. Non è... Sì, va bene, d'accordo. Però adesso stia calmina, che noi ci prendiamo una pausa di pubblicità. Con le manette strette, polsi in mezzo a ladri ed assassini, lo portavano via lungo i viali di Milano, i mitra pronti di 100 agenti di polizia. Tu diventi pazzo, Parenzo. Senti cosa scrive Camillo Langone sul Foglio. Senti, Camillo Langone: Donatella mi prega di accompagnarla giù. Siamo a Piazza Vittorio. Donatella mi prega di accompagnarla giù, deve spostare la macchina e ha paura dei negri. Scendendo le scale penso: e se mi gioco la giacca Borrelli? Non è su misura come quella di Servillo, ma i Borrelli sono fornitori della Real Casa e la mia è una giacca stupenda, di una lana che così secca non l'ho toccata mai e di un punto perfetto di blu, asole ovviamente praticabili. Usciti dal portone, Donatella ha l'idea di fotografare col telefonino i subsahariani sdraiati a dozzine su stracci e cartoni sotto il porticato. Ecco però che costoro si alzano come un sol uomo o come un sol continente per avventarsi contro Donatella, rea di averli fotografati senza autorizzazione. Cancella! Conosce il tuo amore. E meno male che non hanno macete. Vorrei che al mio posto ci fosse Alfano l'Africano, come Aurora Lussana chiama sulla Padania il ministro, secondo il quale gli italiani hanno il dovere di accogliere tutti gli africani sbarchino sulle nostre coste, siano essi 1.000, 1 milione, 1 miliardo. Senti, non è finita. No, ma aspetta, cancella. Sembra ce l'abbiano col mio telefonino, un vecchissimo Nokia col quale non ho mai fatto una foto una. Mi afferrano per la giacca, orrore. Uno di loro la tira con forza, adesso me la strappa, penso. Avessi una pistola, gli sparerei in faccia. Non sono preoccupato per me, penso alla mia giacca bellissima. Con la forza del mio giovane amore Camillo Langone. Ma abbiamo con noi uno che la campagna elettorale l'ha fatta, caro Borghezio, come stai, Mario? L'ha fatta e la sto ancora facendo, perché proprio in Piazza Vittorio concluderò fra poco più di un'ora la campagna. Ma ti manca la voce ormai, Mario, ti manca la voce. Roma infestata, occupata, violata. Ma violata da che? Occupata da questa immigrazione consentita da Scipione, scusate, da Alfano l'Africano. Come Scipione? Il nostro Alfano che assume questi atteggiamenti da condottiero e ci dice che dobbiamo difenderci da 600.000 africani che stanno per invaderci, in realtà parlando con massimo rispetto, non sta facendo un cazzo di niente per difendersi. Però scusa, Alfano ha detto che voi fate campagna elettorale sui morti per prendere lo 0,2%. Ma veramente lui che sembra un morto vivente, perché non sta facendo proprio niente, a parte quell'aria un po' così, detto fra di noi, che non ci ascolta nessuno, un po' patibolare, no. Nel senso, come patibolare, scusa, ma non so, sembra uno al patibolo. Io dico che un ministro dovrebbe pensare a quello che fa e consentire il piano su Roma, svegliato dal quotidiano Tempo, una corrispondenza fra prefettura e comune di Roma, di 48 insediamenti programmati in via di realizzazione di cosiddetti rifugiati, cioè di clandestini, perché i rifugiati sono clandestini, paracadutati su Roma. Beh, io dico che se loro paracadutano su Roma 2630 clandestini, e noi andiamo con i paracadutisti a liberare Roma, i paracadutisti della Lega nel nuovo Parlamento, con le penche di paracadutisti, se li intende, a liberare Roma, perché non è giusto che Roma sia invasa. Questo ministro l'africano ci sta facendo invadere da questa gente che non conosciamo, di cui non conosciamo l'identità. Ma che fanno? Le condizioni igienico-sanitarie, è una vergogna. Ma scusa, difenditi, ti difenderà la Lega. Ma che la Lega? Vogliono marocchinare le nostre donne, ci vogliono far piombare in mezzo alle case, come nel quartiere di Sette Cammini, dove c'è. Però scusami, Mario, fermati un secondo, ma che pericoli ci sono? Che pericoli evochi di questa? Ma pericoli di ogni genere, perché questi non sono controllati e non sono controllati. Cioè? Pensate, solo un cretino può venire in mente l'idea di paracadutare su Roma, ma non succederà. 2630 immigrati solo sulla città di Roma in 48 insediamenti, e nessuno parla, solo il quotidiano Il Tempo e la Lega che sta allarmando la popolazione. Beh, certo, i cittadini del quartiere di Sette Cammini sono due mesi che sono in combattimento. Però lasciamo perdere. Stamattina abbiamo occupato Mario, lasciamo perdere. Prefettura. Ho capito, però lasciamo perdere questa roba qui. Ma che pericoli ci sono concreti? Anche tu parli di Ebola, malattie. Ma io dico che non ne conosciamo le condizioni igienico-sanitarie. Quando le autorità dicono ai cittadini, no? Quando gli portano questi clandestini rifugiati in mezzo alle case, dicono che sono sani come pesciolini, dicono un sacco di frottole, perché a Lampedusa non c'è la possibilità di controllarli. A Lampedusa non c'è l'ospedale per le donne italiane. Però scusa, Mario, ma le donne prendere l'elicottero e andare in Sicilia, ma le donne come possono controllare la salute di gente che arriva dall'Africa profonda? Vergogna. Ma le donne che devono fare? Devono avere paura? Le donne? Ma io dico che tutti devono avere paura, perché la gente nei quartieri a Sette Cammini, per esempio, sono tutti mobilitati e non li vogliono. E le donne in particolare, cioè le famiglie hanno paura, le donne sole, le ragazze, perché? Si paracadutano della gente di cui non sappiamo niente. Ma è una vergogna, che poi, non essendo un carcere, il centro d'accoglienza è incontrollabile. Questa è la vergogna. Vabbè, senti. E il Scipione africano, Alfano l'africano, non si rende conto, ma questo è peggio del generale Juin. Questo ci sta portando la gente che marocchinerà le nostre donne. Romani, svegliatevi, che fanno di nuovo il generale Juin, travestito da Alfano. Ma che chiesto generale Juin? Non ho capito perché. Quello che nel 44 ha fatto invadere il Lazio, il cuore della nostra patria. Ma quelli hanno stupato 3.000 marocchini affamati di donne, hanno violentato mezzo Lazio. Questa è la vergogna, è una delle grandi piaghe. Ma scusa, non ho capito, tu stai dicendo che Alfano abbiamo di nuovo Mario, è impazzito. E nessuno avvisa 2630 clandestini, tutti uomini paracadutati da un governo assurdo, da un governo imbecille, da un governo che non ha il senso di responsabilità. Ma non ho capito, Mario, non ho capito, questi qua che fanno? Vengono qua a stuprare le donne? Questi qua vengono messi in condizione di uscire tranquillamente, perché ormai da tutte le parti, quando arrivano i cosiddetti rifugiati, tre giorni dopo scappano, escono, non sono controllabili. 48 insediamenti nella città di Roma, 2630 in un colpo solo, e nessuno dice niente, solo la Lega. Parenzo. La Lega che ormai è il paradiso. Fermo, fermati, mamma mia, che la Lega difende Roma! Vabbè, dai, Mario, questo è impazzito, ma figurati se la Lega, ma t'hanno cacciato l'altro giorno davanti a una scuola, quando era, stamattina? No, lì c'è stato un episodio di intolleranza. Io sono a Roma da 3 settimane, vengo accolto bene benissimo. Guardate che al trionfale è stato un trionfo, perché grazie a Dio, grazie ai deputati della Lega che alla Camera. Parenzo, tu che controlli la situazione, tu controlli. Hanno portato il trionfo, neanche Garibaldi sarebbe stato accolto. Da tutte le parti mi hanno accolto bene, tranne diciamo due esagitate di estrema sinistra che davanti a una scuola hanno dato in escandescenze. Un quartiere, quello in cui gli italiani non ci sono più. Io sono Parenzo, tu che sai. Vabbè, ho capito, Mario, un attimo. Parenzo, visto, tu che controlli la città. Sto girando la città di Roma, moltissimi, devo dire, sì, manifesti di Mario Borghezio in giro per Roma. Devo dire che, vista la voce che ha, che praticamente è in sofferenza, l'ho visto dimagrito. Beh, insomma, mi pare che l'abbia presa veramente sul serio questa campagna elettorale romana. Non ha mai passato così tanto tempo a Roma come per queste elezioni europee. Vabbè, ho capito, però non ce la farà. Non credo che sono stato a Roma, però non ho trovato gli altri candidati, perché i partiti hanno disabituato la gente a vedere i candidati nei mercati, non ha trovato neanche uno, c'era solo la Lega. Vabbè. Chiedete ai mercati romani, chiedete agli ambulanti. Ma non è vero, dai, c'erano anche gli altri, dai, visto, su, Mario. Hanno visto solo la Lega a Roma, è impazzito. Che difende i romani dall'invasione. Senti, questa è la realtà. Vabbè. Solo la Lega mi difende, romani. È arrivata l'ora. È impazzito. Di mettersi la camicia verde. Ma forza e coraggio. Ma romani, chi? Non fatevi invadere. Ma di che stai parlando? Ma scusa, Mario. Sto parlando del fatto che, aspetta, ripeto, un attimo, fermo come lì. Come ha pubblicato un serissimo quotidiano della capitale, no, ma che in avanzata fase di realizzazione. Ho capito, l'abbiamo detto. Basta, Mario. Ma io voglio capire una cosa. Ma se dovessi mai arrivare a Bruxelles o a Strasburgo, cosa che al momento è anche. Coltello fra i denti. Come coltello? Contro l'immigrazione. Come coltello tra come i denti? Come insegna il vecchio Le Pen. Cioè, il vecchio Le Pen ha detto che vecchio è un paracadutista. Ci vuole il coltello dei paracadutisti fra i denti contro questa Europa imbelle, vile, come diceva la Fallaci. Europa vigliacca. No, che ho si capito. Arresa, Mario, però Le Pen, il vecchio Le Pen dice anche che Ebola spazzerà via l'immigrazione. Queste sono battute, che lui ha il gusto delle battute. Ah, il gusto delle battute. Sarà il gusto delle battute. L'immigrazione la bloccherà il Front Nazionale, noi che siamo alleati, gli unici alleati già acquisiti dal Front Nazionale, sarà uno tsunami. Io non vedo l'ora di leggere i titoli di giornali lunedì. Ma che farete? Il trionfo in Francia, primo partito dappertutto. Ma che farete? Vincono le forze identitarie. Vabbè, impazzito, e quindi anche da noi la Lega. Ma Schulz alla fine, quando lo troverete nei corridoi del Parlamento Europeo, se mai tu ci dovessi arrivare, che succede? Ma se Schulz continua la politica dei socialisti di appiopparci solo tasse, metterci il cappio al collo del sistema bancario e sostenere l'Europa dei banchieri anziché l'Europa dei popoli e aprire questa Europa all'immigrazione, un bel calcio nel culo, signor Schulz, se lo meriterebbe proprio, come tutti questi socialisti, fino all'immigrazione. Arriva una forza, finalmente arriva Bruxelles, Salburgo, arrivano i pretoriani dell'Europa civile, dell'Europa dei paracadutisti. Ma che c'entra questa quella? È l'ora. Ma che c'entra l'ora, i paracadutisti? L'ora. Arriveremo in tanti questa volta. Vabbè. E saremo determinanti. Ma come ci vai col berretto come ci vai col berretto dei paracadutisti? Almeno 20 del Front Nazionale. Vabbè. Gente coi coglioni al Parlamento Europeo. Come 20 non le mezze seghe che ci hanno venduti all'Europa, hanno svenduto la nostra sovranità monetaria, il nostro diritto a farci noi il nostro bilancio. Scusa un attimo, fermo, non è il comizio. Altro che nazione, siamo trattati come delle merde, guardate come trattano i nostri malò e questo governo non fa un cazzo. Questa Mario, è la realtà. Mario, scusami un attimo, ti voglio la Chienghe potrebbe arrivare al Parlamento Europeo, Mario, attenzione. Beh, diciamo che ogni giorno ha la sua pena, quindi avremo anche questa probabilmente, perché il Partito Democratico nel scegliere le mosse sbagliate è campione del mondo e quindi ci porterà anche la signora. La Chienghe verrà rieletta, rieletta nel senso dopo essere stata eletta in Parlamento io probabilmente sì, perché dipende da un sacco di confido nell'intelligenza degli italiani che hanno capito l'importanza dello slogan che ho divulgato al centro, Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Vabbè, ho capito, ma la chiesa è prima gli italiani. Vabbè, ho capito. Prima gli italiani, dice la Lega. Vabbè. Prima gli italiani. Prima i padani, tu dicevi. Se ce n'è, ma tu dicevi non ce n'è. Prima case, tu case, lavoro agli italiani, per gli altri se vabbè. Ce n'è, ma non ce n'è. Come se gli altri non ce n'è, non ce n'è. Vabbè, comunque pensa alla beffa. Chieng, Parenzo, Picchieng eletta al Parlamento Europeo e Borghezio fuori. Che fai, Mario? Che... Caro Cruciani, la Chienge succhierà la ruota del buon Borghezio, che pedalerà, anzi cavalcherà il Varen della Lega, supererà il ronzino, diciamo così, di pelle non chiarissima. Come il ronzino di pelle non chiarissima? Il ronzino, diciamo il ronzino femmina, che seguirà col suo passo simpatico ronzino puro, ma vabbè, diciamo lento, giovane, e un po' e secondo me anche poco sponsorizzato. Sì. Dal partito dei ladri. Vabbè, a presto. Io sono stato oggi a Montepaschi, davanti a Montepaschi. Vabbè. E ho naturalmente parlato di quel partito. Ma scusa, per te così, scusa, garbo equilibrio come sempre. Per te più immigrati, Parenzo, che cavolo stai facendo? No, io volevo capire, stiamo ascoltando, ma provavo a intervenire perché volevo chiedere a Mario Borghezio se in questa permanenza romana si è ricreduto almeno sulla cucina, cioè sul cacio e pepe. No, sulla cucina sono sempre stato filo romano. Io adoro la cucina mediterranea. Ma scusa, solo che non mangiando carne non mangerò mai l'abbacchio. Ma l'aglio, olio, peperoncino e soprattutto il cacio e pepe sono delle istituzioni gastronomiche che secondo me meritano un capitolo scusa Mario, ma più immigrati uguale più stupri? Più immigrati clandestini uguale più schifo, più invivibilità, più stupri, per tutti, più stupri, a maggior ragione per le donne sole. Più stupri. E certo, anche più stupri e soprattutto più contagi, perché la TBC, anche se i nostri catoni antirazzisti non vogliono sentire che questo discorso, la TBC era scomparsa nel nostro paese. Andate a vedere i convalescenziari. E adesso invece chi l'ha portata? Chi l'ha portata? Sicilia. Chi l'ha portata? Sono pieni di gente. Sono pieni di gente, la portante è l'immigrazione, questo è evidente, lo sanno tutti, ma solo la Lega, in particolare Borghezio, lo dice con chiarezza. Ciao, a presto, ciao. Era diventato il paradiso terrestre, non si vedevano Vucumprà, non si vedevano Vulavà, non si vedevano Vutulà, non si vedevano Vustruprà. Hai sentito o no quello che è successo, Lorenzo? David, come? Hai sentito quello che è successo o no? No, ho sentito Borghezio, che è successo dove? Quando? Vai a cagare, vai. Giuseppe dalla provincia di Ancona, dai. Ma che è successo cosa? Ah, niente, non ti preoccupare, fate un altro sonno, vai. Giuseppe dalla provincia di Ancona, vai. Ma se non mi dici, è inutile. Ma che non ti dico, dovresti ascoltare, che dico? Giuseppe, ma cosa urli, ma stai sereno? Giuseppe, ma io sono serenissimo. Siamo in vacanza. Sì, in vacanza mio nonno, tu in vacanza. Tu sei, sempre in vacanza, ricordati, sei sempre in vacanza. David? Ecco, bravo. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Sì, vabbè. Giuseppe dalla provincia di Ancona, non ti preoccupare, non è successo niente. Giuseppe dalla provincia di Ancona, non ti preoccupare. Stai sereno, non ti preoccupare, stai sereno, tranquillo. Giuseppe dalla provincia di Ancona. Buonasera, signor Cruciani, mi senti? Sì, ti sento, vai. Scusa, anzi, io sono del paese d'Aiesi, il paese dell'amico G. Sì, dell'amico Compagno G. Compagno G Greganti, sì, allora? Allora volevo dire, siccome diverse volte che telefono volevo intervenire, sento lì al collega suo, signor Parenzo, che ce l'hanno molto con noi il Movimento 5 Stelle. Gli vorrei spiegare qualcosina. Io ero di sinistra, ero del partito che mi vergogno di aver partecipato, non faccio come lui. E noi non siamo dei sbandati, siamo della gente seria, che io sono stato 45 anni sopra un tir, no? Sì. E lavoriamo e abbiamo lavorato allora? Tutto. E allora volevo dire che non si può dire criminalizzare un branco di sbandati. Cioè non si può criminalizzare chi? Sbandati. Perché noi il Movimento 5 Stelle fortunatamente abbiamo mandato 163 ragazzi a Roma. Sì. Vabbè, quello allora? Questo lo sappiamo. Incensurati. Vabbè, ma non è che non adesso ho fatto con la pedina pulita. E allora? No. E allora? A me mi interessa quello che fanno, però. Che hanno fatto, secondo lei, fino adesso? Ma secondo me, signor Cruciani, è arrivati a Roma con uno zainetto sulle spalle. Sì, ma mi dica una cosa che è stata fatta, una cosa che hanno fatto, una, me la voglio ricordare anch'io perché non me la ricordo, a parte la restituzione dei soldi, altre tante belle cose, ma non ne hanno neanche la possibilità di farle. Ma non che cosa, me ne dica una. Per esempio, se è decaduto Berlusconi, se è andato in galera quello dell'altro. No, decaduto Berlusconi, decaduto per, lei dice hanno spinto per far accadere qualcosa. Che cosa? Berlusconi decaduto? Se non era loro, ancora era là, tutti quanti. Ah, non credo proprio, guardi, non credo. Comunque, vabbè, Giuseppe dire, ho capito, Giuseppe da Salerno, grazie. Giuseppe da Salerno. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, dimmi. Ciao ragazzi, io sono un attivista del Movimento 5 Stelle sul territorio di Salerno. Oh, questi spaccano comunque, Parenzo, questi spaccano, cioè prendono il 30%, te lo dico io. Ma io non lo so, questo... Prendono il 30%, te lo dico io. Allora, vai. Nomi. 30 Cioffi. O poco meno. Giuseppe, vai. Cioffi. Oh, c'è Imposimato addirittura, Imposimato sul palco di San Giovanni a Roma. Ferdinando Imposimato, una cosa da pazzi, dai. Giuseppe da Salerno. Ragazzi, tre nomi: Cioffi, Giordano. No, non si fanno nomi, non si fanno nessuno nomi. Li conosce, ma non rompe non rompa le balle con le preferenze, nessuno chi se ne frega. Conosce, ma sono senatori e parlamentari del Movimento 5 Stelle. Che pensavo che volesse dire le preferenze. 7,5 miliardi te lo dico io che cosa fanno. Che hanno fatto? Te lo dico io che cosa fanno. Si sono opposti a 7,5 miliardi di euro dei nostri soldi dati di nuovo alla banca. Si sono opposti contro le lobby delle slot machine e non hanno machine fatto no machine slot machine, machine quello che vuoi, non ti avrò a applicare sugli specchi, ma no, ma ho capito. A Salerno hanno inculato il sindaco De Luca con il Crescent, un mostro, venitelo a vedere nella mia Salerno. Vabbè, poi poi che cosa hanno fatto più? Con una telecamera nascosta hanno scoperto nei palazzi, nei saloni dei palazzi. Sì, ma in Parlamento cosa hanno fatto in Parlamento? Che cazzo devono fare più? In Parlamento che hanno fatto? Più? E tu puntualmente, tu e Parenzo che va strisciando da Farage in Inghilterra, io l'ho visto. Ma che c'entra? Va a strisciare, andava a fare un servizio, che c'entra a strisciare? Rispetto, tu l'hai sentita l'intervista di Farage su Beppe Grillo? Aspetta un attimo. Il Ferdinando Imposimato in piazza. Sbagliate e lasciando i posti di responsabilità a persone condannate. Vabbè, Giuseppe, continui. Guarda, a me sai cosa mi interessa soprattutto? La soddisfazione del Movimento 5 Stelle, qual è stata? Salvatore Borsellino. Nessuna televisione ha mandato in onda, nessun telegiornale. Salvatore Borsellino ha chiesto scusa a Beppe Grillo, al Movimento 5 Stelle, era uno di quelli che l'ha attaccato per primo Beppe Grillo, quando non è andato a sedersi Vabbè. Di fronte a quel... Vabbè, Giuseppe, arrivederci. Inizia con una dichiarazione di Alfonso Signorini. Ma è vero che il tuo sogno erotico è Sallusti? Vediamo una foto, vediamo una foto di Sallusti, perché guarda, probabilmente io non lo... Ecco, visto così, no. No, ma sai perché? Cos'è che ti piace di guarda, lui? Mi piace perché ha una faccia da stronzo pazzesco. Sì. Risposta, prima risposta della Santanchè qui alla Zanzara. Piace molto agli omosessuali, signor Sallusti? Le devo dire no, che lui secondo me piace da bestia un po' a tutti. Addirittura? A tutti. A tutti. Io di questo sono... No, piace, non a tutti. Piace però a tutti i tipi. Cioè, piace dire, a tutti i tipi. Sono ma anche ai gay, è un po' tipo gay. Certo non vorrei stare con un uomo che non piace a nessuno. Vabbè, quello certo. Cioè, io trovo che lui sia l'oggetto di desiderio di uomini e donne mi fa molto piacere. Ma anche gli uomini? Anzi, mi intriga. Infine, ieri sera a Tango, Sallusti finalmente ci racconta la sua reazione di fronte a questa dichiarazione d'amore, caro Parenzo, del signor Signorini. Signorini, senti qua, inizia, ho la faccia da stronzo ma non lo sono. Condivido la seconda frase di Signorini, cioè c'è una faccia da stronzo, su quello si può abbastanza essere d'accordo, anche se personalmente non mi sento particolarmente stronzo. Senti questa frase culto, eh? In realtà non è solo signorini, ma molti vogliono. Non frequento i siti gay, ma devo dire, mi dicono che sui siti gay il mio nome forte, è rimbalza. E siccome devo dire che non sono gli unici che vogliono mettermela in quel posto, cioè non sono tanti, per esempio i magistrati, i colleghi, okay, che vogliono mettermela in quel posto. Molti vogliono mettermelo in quel posto. E poi signorini mi ha detto, mi ha mandato un messaggio dicendo sentiamoci. Sono orgoglioso, io gli ho messaggiato ammirato e onorato. E lui mi ha risposto dovere. Dovere, virgola, sentiamoci, sentiamo. Ah, sentiamo. Non vediamoci. Che storia meravigliosa. A proposito di amori, visto il commento strepitoso che ha fatto la signora D'Amico ieri sera mentre c'era questa disquisizione su dove metterlo, qual era? Mi sono già dimenticato. No, perché lei ti ha bacchettato, perché tu ridevi come un pazzo, lei meno, e a un certo punto è stato il momento Cruciani, è champagne, ha detto, era bellissimo, è stato champagne. Oh, ho dimenticato evidentemente. Sì, perché ti ha detto, ah, questo è proprio, ti ecci, no, non hai detto ti ecci, ti diverti tu per queste cose, ti ha detto, no? Flavia Vento. Come un pazzo. Flavia, e lei ha detto champagne. E lei ha detto, ah, ecco, champagne, proprio, quando lui ha detto glielo mette, vabbè. Flavia Vento. Ti invito a cena. Invito a cena, andiamo a cena noi due. Va bene, d'accordo, andiamo a cena, dai. Va bene. Comunque, chissà che succederà. Chissà che con questo chissà che succederà. Ti abbraccio, ti bacio e ci vediamo anche presto a cena. Voi, ciao. Ciao, a presto a cena, ciao, ciao. Allora, Claudio da Roma. Buonasera. Vai. Allora, io sto vedendo su Sky Pellegrillo, sì, una meraviglia, l'apoteosi, sì, con Pomarici che dice tutte le verità finalmente. E collego il fatto... veramente non è Pomarici, ma è Imposimato, signor Imposimato. Scusate, sì, scusate. Non ecco, è ancora parla Imposimato, aspetta. Sì. Contro l'opportunismo dei politicanti, contro il trasformismo e contro ogni estremismo eversivo. A questi giovani, linfa rinnovatrice della nostra democrazia, chiediamo di vincere le elezioni e di vincere. Vabbè, adesso sta facendo un comizio da politico pure lui, altro che politicanti gli altri. Vai, Claudio. E la cosa bella, caro Giuseppe, ieri c'era Dario Fo, sì, oggi c'era il nostro amico Imposimato, domani veramente serve Bergoglio che faccia un bel discorso da San Pietro, abbiamo risolto, abbiamo mandato a quel paese tutti. Comunque io... E ho chiamato per dire di quell'altro poverino, quel Borghezio, che una camicia io la metterei verde, ma de forza, il proprio centro di sanità mentale lo manderei, con una diecina di Watussi o di uomini neri molto grossi. Cioè dov'è che lo manderebbe, scusi? Al centro di sanità mentale. Sì, con i Watussi. Con dei Watussi, sì, che come lo vedono arrivare, poi chiaramente ci pensano loro a sistemare la pratica. Io non lo manderei proprio giù all'Unione Europea, perché se fa come ha fatto Salvini, che ci andava tre volte l'anno, sì, io non ho capito che cosa cerca sta Lega. I loro comprimari, i precedenti, se sono mangiato tutto, bisogna dire che c'è solo la pentola, se poi loro raschia il fondo, è quello che gli è rimasto. Grazie. Perché, Salvini, ciao, e Maroni. Ciao, ciao. Auguri e forza Grillo. Ciao, ciao. Spettacolare, spettacolare. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Quelli che continuano imperterriti a fumare le sigarette. Guido Crosetto, 80 sigarette al giorno. Allora, siccome lei è arrivato a un livello di 150 una volta? No, adesso sono sull'80. 80? Sì, dipende dai giorni, via. La lobby del tabacco mi paghi la campagna elettorale. La lobby del tabacco non ti dà qualcosa, la lobby del tabacco. Ma figurati, dovrebbe pagarmela totalmente. Cioè adesso, sai, più che la lobby del tabacco dovrebbe darmi lo Stato, perché l'85% finisce allo Stato. Lo spray le faccio secche con lo spray. Tanto Crosetto ieri ha detto che ha speso più di 5 milioni del suo patrimonio da quando è entrato in politica, cioè da quando è diventato sindaco di un piccolo comune piemontese. Ma Renzo ormai dorme, cioè, sta dormendo di brutto, cioè, sta dormendo di brutto, cioè, con la gente che scrive su Twitter che dice: ma scusa, ma stasera che fine ha fatto? È sparito, è morto. No, scrivono perché è twitto, io no, perché twitti, perché sei assente, Martino, D'Antonio Martino. Sei tu che c'hai un tarlo del cervello che non senti. No, sei assente, sei morto. Non urlo, sei morto, non urlo. No, sei semplicemente morto, è diversa la cosa. Ho fumato quasi 256.000 sigarette. Io ho fumato 255.000, quasi 256.000 sigarette, ma non nell'ultimo anno, se no avrei un po' di raucedine. Ho impiegato 54 anni per fumarle. E poi Martino dice che il fumo passivo esiste anche in chiesa con i candelabri, non so. Qualcuno dice che la legge contro il fumo è stata una delle poche cose buone dei governi Berlusconi, pensi un po'. Io la trovo una delle cose più deplorevoli che sia mai stata approvata. Poi voi che obiettate al fumo passivo non andate mai in chiesa, perché quando sennò quando c'è l'incenso quello è fumo passivo. Allora andiamo con Francesco da Cagliari. Buonasera Cruciani. Vai. Crosetto potrebbe essere proprio l'ideale per il politometro. Perché? Se ha messo 5 milioni attraverso il politometro può dimostrarlo e gli verrà anche reso merito, perché il politometro non è un processo sommario, è un incrocio di dati economici, conti bancari. Ah, ma che cos'è quella roba che vuole fare Grillo con il patrimonio prima e dopo? Prima e dopo, esatto, e chi si è arricchito illecitamente restituirà e pagherà, chi non si è arricchito illecitamente verrà riconosciuto. Ma chi lo stabilisce l'arricchimento? Scusi Francesco, chi lo stabilisce? Incrociare dati amministrativi, conti bancari, proprietari. Ma chi lo dovrebbe fare? Chi lo dovrebbe fare? Dei commercialisti. Lo ma chi fa con... commercialisti? Non si può fare questa roba, il politometro, su un blog privato di Grillo. Ma che vogliamo fare? Il processo. Il fatto del blog è che sarà valutato sul blog. Si potrà anche fare una commissione parlamentare. Tra un po' andremo noi. Si rivoterà presto. Stiamo arrivando. Ah, perché lei è dei 5 Stelle. Votati via tutti. La gente li vuole votare via e li voterà via con Grillo. Voti votare non via più. Renzi non guadagnerà un voto che sia uno. Però scusi, sulle percentuali che avevano alle politiche col doppio degli elettori. Gli elettori scenderanno ancora, quindi se avrà il 30% vuol dire che avrà perso un'altra milionata di voti. Vabbè, minimo. Francesco, io non ho capito una cosa. Lei dunque approva questa questione da simpatizzante grillino, approva la questione dei processo via web. Il rendiconto amministrativo dei politici o delle persone che hanno avuto incarichi, hanno ricoperto incarichi ma anche in ruoli amministrativi ed importanza, ecco, devono rendere conto ai loro paesi, vanno controllati perché nessuno li ha mai controllati. Guardi, hanno fatto quello che hanno voluto, ci hanno mangiato tutto, ci hanno lasciato, ci sono 1 milione di bambini sotto il livello di povertà, l'ha detto l'UNICEF. Sì, ho capito, ma non si può fare questa roba qui, ma chi lo decide come si va? Una società dove ci sono 1 milione di bambini che non hanno accesso all'istruzione primaria, che sono sottoalimentati, e allora? Non si possono vestire, abbiamo un genio che dà 80 euro a 10 milioni di stipendiati e non dai 200 euro a 5 milioni di persone che girano intorno a quei bambini, perché glieli vuoi mettere due genitori, due nonni e una zia di media? 5 milioni di italiani che vivono nell'umiliazione di non poter mandare un figlio a scuola o all'asilo, di non potergli far fare uno sport. Lorenzo, come rispondi a questo? Ma guarda, io non trovo violento di per sé il processo via web. No, trovo... è la storia degli 80 euro. Gli 80... Vabbè, ma gli 80 euro l'abbiamo detto 2000 volte, è chiaro che ci vogliono delle cose strutturali. Ho detto all'inizio di questa trasmissione oggi che trovo... Ma vuoi rispondere, a quello che ha detto questo signore? Ma questo che signore cosa da Cagliari? Vuoi da me? Che cosa? 80 euro, l'abbiamo detto due fino alla nausea. Francesco, vai avanti tu. Francesco, vai avanti tu. Francesco, vai avanti tu. Per dare serenità, l'umiliazione di non poter mandare un figlio a scuola, di non potergli far fare uno sport, di non poterlo mandare alla gita. Ma che democrazia è? Ma dai soldi a quelle persone, allora sì che rimetti anche in moto l'economia. Sicuramente li spendono quei soldi. Magari, scusami scelte. Francesco, magari quegli 80 euro li dai proprio a quelle persone lì, quelle che hanno un reddito fino a 1500 euro, no? No, perché sicuramente quel milione parte che non sono tanta. Non sono figli di chi ha 1500 euro di reddito, perché stiamo parlando di bambini sotto il livello di povertà, malnutriti e malvestiti. Ma voi, perché per te che sei un militante della militante attivista dei 5 Stelle, che cosa sono questi 80 euro? Una mancia elettorale? Peggio dell'elemosina a carte di Berlusconi. Vabbè, è poi lo stesso livello, poi è clientelismo. Noi stiamo per il voto d'opinione. Chi vota il 5 Stelle vota liberamente. Vabbè, anche gli altri votano liberamente. Su, rete. Anche gli altri. Poi i cittadini senza rete stanno votando il movimento. Vabbè, Francesco, poi che mi devi dire? La rete, ma la rivoluzione la stanno facendo i cittadini senza rete. Che mi devi dire poi? Che mi devi dire poi, Francesco? Che devo dire, che vinciamo noi. Vabbè, che ho capito. Il prossimo presidente della Repubblica. Ma che c'hai già i sondaggi? Hai già i sondaggi tu? I sondaggi no, sono dati senza bisogno di sondaggi. Tu hai tranquillamente il cavallo Dante che sta per rompere, il cavallo Cristoforo Colombo e non Mar, il Folle. Vabbè, Cristoforo Colombo. Il fiorentino, chiami Cristoforo Colombo il genovese. E no? Quanto sta? Quanto sta? Ha un'incollatura e quello sta per rompere. Non c'è neanche più davanti perché non guadagnerà un voto. Poi, i voti che hanno preso con Monti, 3,5 milioni, adesso con il governo prima Letta. Poi insieme a Berlusconi, poi adesso col governo Alfano, con Berlusconi che l'aiuta a fare le riforme e fa la finta cosa pensa di guadagnare voti? Ci faranno vedere solo le percentuali, ma sarà un bagno di sangue, perderanno voti a milioni. Ciao caro, ciao. Forte questo però, Francesco da Cagliari, una spada. Sì, forte, vado a spiegare fortissimo, a quelli che hanno ricevuto fortissimo. 80 euro. È con noi Massimo Ceccherini, buonasera, ciao Massimo. Ciao Massimo, ma veramente, ma avete rotto i coglioni con perché? Questo programmino? Perché abbiamo rotto i coglioni? Ma perché un programma di merda, dai, questa zanzarina, molti ti struzzo l'autan. Ma che sei matto, Massimo? Ma, che ma, c'è, ma che poi perché mi dovete disturbare a me mentre sto lavorando? Che io stai sto facendo? Lavorando. Che stai facendo, Massimo? Innanzitutto saluto Cagliostro, prima di tutto. Salutiamo Cagliostro, certo. Poi vorrei salutare Lapo, il prossimo candidato a Milano come sindaco. Lapo, sì, certo. Secondo, vi devo dire che io sto lavorando perché mi sto preparando per diventare cantante, per andare a The Voice. Sì, pure. Anche. E se volete, visto che mi state un po' sulle palle, potrei farvi sentire la mia canzone. Facci sentire la tua canzone, dai. Ma ve la fa a cappella? Sì, la devi fare a cappella, come si dice in gergo. La devi fare così, sul momento. Va bene, ve la faccio. Vai. La canzone si intitola Passerà. Passerà, vai. Passerà, passerà quella voglia che ho sempre in testa, che mai passerà. È un desiderio che provo dentro e sento forte la mancanza. Passerà, passerà, passerà, e se non passerà la mia mano interverrà e come sempre lei mi consolerà. Ma poi è bella. Beh, insomma, adesso no, ma non è finita, aspettiamo prima di dare un giudizio definitivo. Sento che Parenzo è basito di fronte a questa non cosa. Ho bisogno di quella passerà, ne ho bisogno. E se Renzi mi dà quell'ottantino, indovinate dove lo spendo? E dove lo spendi? A Passerà! Ma stai messo male. Ma bella, scusa, io... Massimo, a parte che è agghiacciante. Vorrei andare con Pelù. Sì, a parte che questa cosa qui è agghiacciante, questa canzone. Non prendete per il culo, allora canta te. No, ma io canto, però devo avere un testo davanti, qualcosa. Mi sembra che tu abbia, come dire, una leggera voglia di sesso, non so come dirlo. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega. Ma perché ci vuoi fare chiudere bottega? Scusa, spiegami perché. Ma basta con questa radiola di merda, basta. Basta, forza, sì, basta, dai, è vero, basta. Chiudiamo bottega, andiamoci. Fate un altro lavoro, no? Fate come me, che io faccio molti lavori. Io, per esempio, invento, faccio anche l'invenzione. Ma l'attore, lo fai ancora l'attore o no? No, non me lo fanno fare. Non te lo fanno fare, ormai sei diventato una pippa, diciamo la verità. Io spero di riuscire a fare una fiction, non lo so, un padre figlio, una roba. Così un ti prendi, Matteo, no, Padre Pio, Don Matteo, per te mi sembra una cosa che... No, ma che un si... frate marcio che sta in fondo alla chiesa, via, non voglio mica fare il protagonista. Un frate malato, cioè un frate di quelli che, sì, che, io... che vanno proprio a puttane, cioè di questi no, che vanno... No, non dire parolacce. No, no, no, scusa, per carità, per no, carità. Veramente. Ma tu abitualmente ci vai a... Perché prossim- deve continuare di molto questa intervistina marcio. Cioè, no, andare avanti. Volevo sapere da te un giudizio pacato su Renzi, che più o meno è un tuo vicino di casa, no? Ma Renzi, io non voglio parlare di queste cose. Perché Renzi? Non vuoi parlare di Renzi, Cioccherini? Perché lo conosco, via. Appunto, appunto. Lo ma l'avevo anche già detto l'altra volta, da ragazzi, ma dici, lo frustavo, passato... io lo frustavo a culo nudo con l'ortica, con le piante. Ma quando lo frustavi a culo nudo, scusa? Da ragazzi. Da ragazzi, ma adesso... Può frustare anche ora se lo trovo. Ma come lo vedi adesso? Da quanto tempo è che non lo senti? Oddio, che palle, madonna. Niente, Renzi non vuoi parlare, eh? Renzi non vuoi parlare. Vuoi parlare? Ho vuoi fatto un'invenzione, voglio brevettare un'invenzione. Facci sentire l'invenzione. Ho bisogno di guadagnare soldi, non me ne frega di parlare di Renzi. Bravo, allora facci sentire. Allora, questa è un'invenzione che può servire a tutti coloro che non riescono, insomma... Okay. Quando vanno a un bagno, insomma, non riescono ad andare di corpo, che scacchiolano con difficoltà. Allora... o a pizze e bocconi, diciamo, sì, no? Che, sì, insomma, sì. Quindi è molto utile per il popolo assolutamente italiano. Per quelli che hanno un po' di problemi ad andare non in bagno. Non è una gag, è verità. Questa io il brevetto lo sto facendo a giorni. Allora dimmi, fai scorrere l'acqua in focaca, ma deve bruciare proprio, deve pigliare a fuoco l'acqua. Sì. Fai un bel pacchettollo di artigiani, fai un malloppotto. Con l'acqua. Lo metti, no, la artigiani a mano. Sì. La pallottoli, sì. La metti sotto l'acqua che brucia, ma deve bruciare. Sì. E poi immediatamente te la tappi al reparto anale. Al culo, sì. Il bruciore, sì. Slarga. Ed ecco risolto il problema della cagata a pizza e bocconi, cioè però, si va liberi poi. Però scusami Massimo. E provaci invece no, di stare lì a fare le intervistine marce, vai in bagno ora. Ma non ho problemi. Mi chiami fra mezz'ora e mi dici se non ha funzionato. Ma io non ho problemi da questo punto di vista però. Ho capito, ma ce l'avrava una volta. Ma uno poi scusa, veniva. Uno si prende un ustione al sedere, cioè in questo modo. No, perché poi sì, no, ti abbrustoli la peluria. Vabbè, ho capito, no. Ci saranno metodi più moderni. Allora, scusa, ma telefonate a Panariello, ma cosa volete da me? Io ho questi argomenti, non ho ma altri, chi non bo- mi interessa a me di Renzi. Ma chi mi voti? Interesserebbe di quella signorotta che ha messo al governo, quella mi garba. Ah, ti garba la Boschi, ti garba la Boschi. Quella non è male. Vuoi il telefono? No, allora, vuoi posso dire una cosa su di lei? Vuoi il telefonino? Sì. No, io ce l'ho già. Ce l'hai già il telefono? Io sono stato fidanzato con lei, poi lei mi ha lasciato. Sì, figurati. Ma figurati, non è. Te lo giuro, ho le prove. Sì. Lei prove? Mi ha lasciato, state zitti, ascoltate. Sì. Perché perdevo i capelli. Allora eccoli, e io adesso ho inventato un'altra soluzione per chi perde i capelli, anche questa pare ancora più utile di quell'altra, sì. Della casa a pizza e bocconi. Sì. Ve la dico? Vai, vai, dimmi. Allora. Attenzione, quando sì. Avete che vedete che perdete i capelli, sì. Che ve ne rimangono pochi, tipo Parenzo, sì. Prendete il gesso, no, io il gesso in polvere, capito? Il gesso facciamo? Quello per stuccare i muri, sì. Un malloppetto di gesso, te lo butti in testa, sì. E subito la lacca a spruzzo a randa. Ma così, così perdi... Se lo dico io funziona, io lo fo. Ma guarda, ma così diventi pelato in maniera pazzesca. No, perché il gesso stucca e ferma la testa, anzi dà volume anche alla testa, e la lacca fissa il tutto. Io da quando lo fo, la signorina, insomma, dice che forse mi può rivedere. Vabbè. Ciao Massimo, a presto. Arrivederci. Ciao, ciao. Gianluca da Genova per concludere, però Gianluca brevemente, brevemente. Gianluca. Buonasera a tutti. Vai, veloce. Visto che ho stato aspettando fino adesso, comunque faccio prestissimo. Allora, stasera condivido con voi un gossip, nel senso che all'aperitivo un mio amico, sì. A proposito della Boschi, mi ha riferito che domenica scorsa, se non erro, domenica scorsa, sì. Sull'aereo da Genova a Roma era con allora? Il Boschi che stava portando un bellissimo mazzo di rose rosse e quindi sì. Potrebbe lasciare pensare che finalmente abbia trovato ma no, lavoro. Semplicemente qualcuno gli ha regalato un mazzo di rose no, ma però, semplicemente uno gli ha regalato un mazzo di rose, amico mio. Vabbè, però, ci sentiamo lunedì, ci stata. Sentiamo lunedì, ciao ciao ciao. Ma veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Ma perché un programma di merda, dai, questa zanzarina? Mo ti spruzzo l'Autan,